Letture di Radio 24. L'impresa di Philippe Petit, il funambolo che nel 1974 camminò su un cavo teso tra le due torri gemelle, è il filo conduttore che unisce i vari episodi che compongono il nuovo romanzo dello scrittore irlandese Colum McCann. Il 7 agosto 1974, un temerario equilibrista francese, Philippe Petit, tese segretamente un lungo cavo fra le due torri del World Trade Center e fece una spettacolare camminata sospeso nel cielo a 110 piani d'altezza, tra lo sgomento e lo stupore di una folla di newyorkesi che non volevano credere ai propri occhi. Fu un fatto straordinario di cui si parlò ampiamente, specie dopo l'arresto di Petit, che gli costò una simbolica condanna in tribunale, un centesimo di multa per ogni piano della torre, e che produsse un affascinante libro, Toccare le nuvole, in cui il funambolo spiegava le ragioni della sua sfida improntata alla libertà assoluta. L'impresa di Petit, resa più significativa dopo l'attentato del settembre 2001, sta al centro di Questo bacio vada al mondo, l'ultima densissima opera di Colum McCann, scrittore irlandese nato nel 1956, ormai da anni trasferitosi a New York, autore di bestsellers come La sua danza e Zolì. Si tratta di un romanzo polifonico che attraversa molti strati sociali ed è basato su un accattivante procedimento di contemporaneizzazione dei piani narrativi che permette a McCann, sicuramente influenzato da modernisti come Virginia Woolf e James Joyce, di unificare con un espediente tecnico gli innumerevoli filoni che racchiude, divisi in quattro sezioni. Come nel caso di Mrs. Dalloway della Woolf, infatti, un elemento aereo capace di attrarre l'attenzione dall'alto viene utilizzato per darci una sensazione di immediatezza. Nella fattispecie, la scrittrice inglese impiega un aeroplano pubblicitario che attraversa il cielo di Londra e che viene notato e indicato dai due protagonisti del romanzo, la signora Dalloway e il povero reduce Septimus, che in realtà nel romanzo non si incontrano mai. Mentre McCann affida a Petit, dal suo luogo privilegiato nel cielo di New York, il compito di convogliare su di sé gli sguardi e i sentimenti dei suoi personaggi. Questo bacio va al mondo è ambientato a New York proprio nel giorno della traversata, in un'atmosfera che sembra alternare in linea con le oscillazioni interpretative dell'impresa simbolica del piccolo, fragile, eroico equilibrista, momenti di sogno e di speranza a momenti di tragedia e disperazione. Sotto quell'agile tremolante figura si muovono i molti personaggi del romanzo, a partire da Corrigan e dal fratello Ciaran, due irlandesi profondamente legati fra di loro. Corrigan è una sorta di invasato di Dio che dedica se stesso alla fede e all'assistenza spirituale delle prostitute, sia in patria che a New York, dopo essere stato trasferito nell'inferno del Bronx dal proprio gruppo religioso, mentre Ciaran è una mite creatura che gli sta accanto, nell'intento di proteggerlo dalla perdizione che incombe su di lui. È convinto che Corrigan, per sopportare quella vita, faccia ricorso all'eroina. A questo punto la narrazione si sposta in una zona ben diversa dal Bronx, nell'Upper East Side, uno dei quartieri più esclusivi della città, dove Claire Soderbergh, moglie di un rinomato giudice newyorkese, quello che dovrà giudicare Petit, riunisce un gruppo eterogeneo di conoscenti con cui condivide lo stesso dolore, la morte del figlio nella guerra del Vietnam. Tra le donne che si ritrovano da Claire c'è anche Gloria, una nera discendente di schiavi che viene dal Bronx, che abita nello stesso edificio in cui abita Corrigan. Ecco, tutto ciò dà un'idea dell'abile gioco di incastri contenuto in Questo bacio vada al mondo, in cui subito dopo compaiono altri personaggi, due giovani e spiantati artisti, Blaine e Lara, figlia di capitalisti finita nei bassi fondi del village in cerca di droga, poi dedicatasi, come Blaine, alla pittura astratta. Sposati da poco tempo, abitano a nord di New York, ma proprio nel giorno dell'impresa di Petit sono in città per vendere i loro quadri e stanno percorrendo un ponte sull'East River in condizioni un po' precarie sotto l'effetto delle anfetamine. Un attimo di disattenzione ed ecco che la loro auto, una vecchia Pontiac Landau del 1927, urta un furgone che li precede e ne provoca il ribaltamento. Dentro quel furgone c'è Corrigan con l'amica prostituta Jaslyn. Entrambi restano uccisi. Consapevole di essere la causa indiretta della morte dei due, a guidare era il marito, Lara andrà al funerale di Jaslyn, dove incontrerà la madre della ragazza, Tilly. anche lei prostituta, condannata per furto e autorizzata dal giudice Soderbergh, marito di Claire, ad assistere alla funzione in manette. Un fatto che ha lo scopo di moltiplicare le storie sempre più complesse che si intrecciano in continuazione. Jaslyn abitava nella stessa casa di Gloria e di Corrigan, dando vita a un dramma corale che ha come epicentro l'uomo che sta camminando sul cavo d'acciaio, cui peraltro viene dedicato un capitolo molto toccante che racconta la nascita di un sogno quasi irrealizzabile, a partire da quando il giovane Petit, attratto dall'immobilità aerea dei falchi sulle montagne rocciose, decide di sperimentare quel tipo astruso di volo su un cavo teso, per poi proseguire con le prime esibizioni per i turisti di Washington Square Park su una fune agganciata a due lampioni, sino a concepire la più difficile impresa mai attuata prima, l'attraversamento dello spazio fra le due torri. Questo bacio vada al mondo è un affresco dalle forti tinte, capace di ritrarre il grande respiro della metropoli con le sue contraddizioni, i suoi splendori e le sue miserie. E in questo senso molto efficace appare la metafora delle Twin Towers, un capolavoro del capitalismo sepolte in un mare di polvere che si confonde con quella del funambolo, capace di volteggiare lieve come una libellula in quel cielo denso di presagi. Avete ascoltato una recensione di Renzo Crivelli al nuovo romanzo di Colum McCann, Questo bacio vada al mondo intero, dall'inserto culturale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. È risaputo che dieta mediterranea e olio extravergine sono utili per prevenire le malattie cardiovascolari. L'ennesima conferma arriva ora da una ricerca scientifica. Pane e olio extravergine tutte le mattine, o magari ciambelloni e biscotti che lo contengano al posto del burro. È la ricetta perfetta per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Lo dice una ricerca dell'Università di Córdoba in Spagna, secondo la quale sono alcuni micronutrienti presenti nell'olio d'oliva, i fenoli, a rendere la dieta mediterranea la più adatta per un cuore sano. Nello studio i ricercatori, guidati da Francisco Pérez Jiménez, hanno esaminato gli effetti di una colazione ricca in fenoli dell'olio d'oliva in 10 pazienti affetti da sindrome metabolica, una condizione comunemente associata con un alto rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. Altri 10 pazienti colpiti dalla stessa patologia hanno costituito un gruppo di controllo che ha assunto olio di altro tipo, per esempio di semi. Per le 6 settimane della sperimentazione, i partecipanti non solo hanno consumato la colazione assegnata, ma hanno anche seguito un'alimentazione simile tra loro e povera di olio d'oliva negli altri pasti della giornata e hanno evitato di assumere farmaci, integratori minerali e vitaminici o altri supplementi. Trascorso questo periodo, attraverso un'analisi genetica dei pazienti, i ricercatori hanno identificato 98 geni che vengono espressi diversamente a seconda che si segua una dieta ricca di fenoli dell'olio di oliva o meno. Molti di questi geni sono infatti coinvolti in processi infiammatori e vengono repressi nel primo caso. Secondo gli studiosi, questi risultati, oltre a fornire una spiegazione della minore incidenza di malattie cardiovascolari nei paesi dell'area mediterranea, indicano che la dieta può modificare l'attività del sistema immunitario. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Caterina Visco, Olio a colazione, dall'Espresso del 4 novembre.